Bene, allora io direi che possiamo intanto iniziare. Vi ringrazio di essere qui con noi. Buonasera a tutte le signore e signori. Ringrazio i nostri ospiti, in particolare appunto l'autrice del libro di cui si parlerà questa sera, Eleonora Goio, che ritroviamo dopo alcuni anni. Ringrazio Paolo Gazzi che si è offerto di accompagnare questa presentazione e di raccontarci, di chiedere, di fare un'intervista, diciamo, anche a Eleonora Goio. Eleonora Goio non è al primo libro, che sarà questo di questa sera, in solitaria, pellegrinaggio nel sud dell'India, bensì l'abbiamo già conosciuta in altre occasioni perché di libri ne hanno già scritti parecchi, sempre con il tema centrale, il percorso, il viaggio, un viaggio non solo attraverso il nostro bellissimo pianeta, ma anche probabilmente c'è una componente introspettiva che ci interessa moltissimo, vista la sua esperienza straordinaria, esperienza anche personale. Eleonora Goio, Mezzaluna al rovescio, Diario di un viaggio, ve li mostro, ma poi li abbiamo anche qui a disposizione. Che Cuba, in quale direzione va l'isola caraibica, Vita al rallenti e infine Viaggio al buio, Diario di viaggio sulla Via della Seta. Ecco, di solito siamo sempre molto contenti di conoscere delle esperienze, anche delle esperienze autobiografiche delle persone che ci vengono a presentare i propri libri, ed è un arricchimento di cui teniamo particolare considerazione, anche perché di solito il libro, al contrario dei documenti, degli archivi, è una condivisione generosa di un sentire, di un pensare che l'autore o l'autrice regala al lettore, ed è una corrispondenza che si innesca in maniera invisibile, una rete impalpabile ma che rimane molto forte. Il legame con un libro, ma soprattutto con l'autore e l'autrice che l'ha scritto, è invisibile, rimane, e in queste occasioni abbiamo anche la possibilità di conoscere direttamente chi l'ha scritto. Ecco, vi ringrazio tantissimo, ringrazio ancora Eleonora Goio e Paolo Gazzi e vi auguro una bella serata, sperando di ritrovarvi poi in biblioteca, perché noi ogni giorno organizziamo qualcosa qui. Se vi iscrivete è gratis e ricevete poi le comunicazioni delle nostre attività. Grazie mille. Grazie. Bene, aspetta a me un attimino presentare Eleonora. Valeria Trevisan ha detto che non è il primo libro, ma anche se lo presentiamo adesso, questo qua non è nemmeno l'ultimo, perché ne ha già scritto un altro. Questo libro in realtà avremmo dovuto presentarlo 3 anni fa. Ok. Questo libro avremmo dovuto in realtà presentarlo sempre Eleonora e io, che ormai facciamo un binomio. 3 anni fa, quando è scoppiata la pandemia, proprio in questi giorni qua. Purtroppo il tutto si è fermato per 3 anni, e adesso siamo qui a presentare questo libro e va bene lo stesso. Allora, che dire di Eleonora? Io, se dovessi definirla, la definirei vulcanica. Facciamo un pochino il ritratto di Eleonora. Allora, me lo sono dovuto scrivere, non perché non lo so, ma perché sono talmente tante le cose che alla fine avrei dimenticato qualcosa, e sicuramente qualcosa ancora ho dimenticato Eleonora. Allora, Eleonora nasce a Trento, fa le scuole medie alle Archimedie di Bolzano, dove ho studiato anch'io, eravamo compagni di scuola, per cui ci siamo conosciuti lì qualche anno fa. È stata atleta agonista nel softball e nel kayak, ha studiato all'ISEF e poi mamma, insegnante, imprenditrice, costruttrice, skipper, scrittrice, fotografa, ingaggiata in molti campi del volontariato, viaggiatrice e amante della vita soprattutto. A 50 anni subisce un'operazione al cervello che lascia dei segni e la lascia semi paralizzata, ma non è da lei a rendersi. È un periodo brutto che coincide anche con la morte del padre, e si trova a dover confrontarsi appunto col distacco degli affetti. Da questo punto parte l'idea di fare un viaggio in India del Sud. Ok, allora intanto grazie di essere venuti qua, e spero che sia un piacevole viaggio insieme. Se io presento i libri, non lo dico, chiaro che scrivo anche per me, visto che è una scrittura per me terapeutica, chi scrive forse lo sa anche, insomma il mio pensiero è questo, si scrive per sé, poi se c'è qualcosa di interessante da raccontare agli altri ben venga. E per me appunto il viaggio in India è stato terapeutico e anche un po' la ricerca di una motivazione del fatto appunto che avevo perso papà da poco e non avevo lasciato, diciamo, non avevo elaborato il lutto. Non ero riuscita a salutarlo come volevo perché io ero già in sedia d'hotel e lui anche, e quindi insomma ho detto ok, parto per faccio questo viaggio alla ricerca di qualcosa. Intanto ero partita per l'India, almeno per quello che ne avevo sentito parlare, è un paese che ti mette in difficoltà. In difficoltà ti deve far riflettere, entri in una logica molto diversa dall'Occidente, e quindi volevo sperimentare questo modo di pensare diverso. E niente, io poi sono una che appunto, conoscendomi, chi mi conosce, non viaggio mai programmata, ho preso solo il volo di andata e ritorno, e proprio questo motivo mi ha permesso di vivere a pieno proprio ogni singola giornata. Mi facevo affascinare da quello che mi incuriosiva. Se vedete le foto, infatti capite che io viaggio un po' così, senza una logica, senza un programma, senza una meta predestinata, a parte i 15 giorni che avevo deciso di fare ayurvedica per recuperare una parte della emiplegia, e poi per il resto veramente ti fai prendere per mano e vai e viaggi con gli indiani, quindi un po' questo. Tutti questi posti che vedete, ipercolorati, così bellissimi, affascinanti, ecco io giravo i bastoncini, come vedete. E quindi avevo un piccolo trolley, uno zaino in spalla e i miei bastoncini da Nordic, e io ho girato tutto il Kerala, una parte del Karnataka e poi il Tamil Nadu, che è dove lì ho fatto veramente il pellegrinaggio con gli induisti, e lì mi sono veramente immersa nella loro cultura e nella loro anche religiosità o spiritualità, insomma, anche se ci sono contraddizioni, è un paese molto contraddittorio, ha molti contrasti estremi, quindi un po' imita l'Occidente, un po' siamo noi che prendiamo delle cose da loro, ma soprattutto hanno un altro modo di pensare, questo senza fare di dubbio. Come vedete, adesso che guardate le immagini, io ho girato sempre, questa è la mia bottiglietta che mi ha seguito per 2 mesi. Per 2 mesi io sono partita con la mia bottiglietta e l'ho riportata a casa la stessa e la riempivo con l'acqua dei templi dove andavo, mangiavo con le mani, questi sono i cibi, i piatti tipici indiani, e quindi potevo permettermi di mangiare con le mani, e per fortuna ho la parte emiplegica alla sinistra, perché per loro è la mano del diavolo, insomma comunque la mano non sacra, quindi insomma ero, almeno da questo punto di vista ero fortunata. E poi ho sempre usato i loro mezzi, quindi autobus, rickshaw, treni, se avete visto prima il treno era molto spartano, e tanto a piedi anche, se io cammino con lentezza ovviamente, però in quei 12 ore stavo in piedi, 12 stavo sdraiata, alle 9 di sera andavo a letto e alle 9 di mattina più o meno ripartivo, e per quelle 12 ore camminavo, chiaramente fermandomi, facendo passeggiate, chiacchierando molto con gli indiani, insomma ecco un po' questo. Quindi quindi ti sei immersa completamente nella loro vita, nel loro modo di vivere, non era un viaggio organizzato, non era quello che la gente vuole vedere, e la tua esperienza negli ashram? Sì, faccio solo una una parentesi, dico qua, qui sarà il posto dove io sono stata 15 giorni in un centro ayurvedico, io avevo questa casetta da sola sull'albero, e questo era quello che vedevo la mattina. Provate a immaginare cosa vuol dire stare 15 giorni in questa oasi di pace, perché qui non puoi non meditare, non puoi non essere a contatto con la natura, non puoi essere in sintonia, io dico, con l'universo. Cioè lì ho veramente vissuto in totale armonia con, io dico, il tutto, all is one, noi facciamo parte di tutto, e lì in assoluto è così. Questi sono i posti dove io sono rimasta affascinata, in contrasto, come mi faceva la domanda Paolo, questi sono gli indiani che io adoravo, che ho incontrato, che veramente, anche se non comunichi nella loro lingua, comunichi sicuramente con gli sguardi, con il modo di stare con loro, insomma, magia pura, io lo dico così. L'ashram invece, che io ho voluto provare, ne ho provato 2 o 3, quello che mi ha fatto più star male, diciamo, che mi ha deluso, è stato l'ashram di Amma, che qualcuno conoscerà magari, la grande madre. Allora, qualcuno la considera un guru, io non voglio mettere in discussione quello che lei può rappresentare per l'Occidente, però io che ho vissuto nel suo ashram per un periodo molto breve, perché poi non mi apparteneva quella cultura e quel mondo. Allora, intanto ho costruito in un enorme palmetto, che forse è passato prima nelle immagini, forse non l'avete visto subito, se ripassa ve lo farò rivedere, e quindi ha distrutto una grandissima oasi di verde, continua a costruire grattacieli su grattacieli a un ritmo frenetico da grande imprenditrice, continua a costruire e la tipografia continua ad andare 24 ore su 24, che siano i dépliant piuttosto che i suoi libri, piuttosto che la promozione del luogo, eccetera. E lì la sveglia alle 4 per fare la prima, diciamo, preghiera, la prima meditazione, e poi vai avanti fino alle 10, alle 11, quindi di riposo effettivo sono 5 ore, perché fino alle 11 c'è la possibilità di fare meditazione o di stare in questa sala dove lei praticamente fa gli abbracci. Il primo giorno che sono arrivata io ero alla 701esima ed era alle 11 di mattina. Io ho calcolato che solo quel giorno che io sono arrivata ne avrà fatti 1500. Allora io mi chiedo, io faccio anche io gli abbracci, io faccio parte del mondo del free hugs, o insomma degli abbracci liberi, finché si poteva farli, li facevo anch'io in piazza. Io ho fatto una settimana di un corso particolare per capire cosa vuol dire trasmettere energia attraverso l'abbraccio, e lì mi sono sentita averci veramente una cosa di un meccanico incredibile. Cioè io sono arrivata là, dovevo togliermi le scarpe, inginocchiarmi, metal detector, controllare che non avessi niente armi, perché lei è considerata appunto come un capo di stato religioso, e quindi non doveva essere, come dire, aggredita. E a quel punto tu diventi veramente, stai lì e aspetti che lei ti abbracci. Mentre mi stavo abbracciando, chiedeva per quale motivo io ero là, vedeva che io avevo difficoltà motorie, ma io non ero lì per chiedere né miracoli né niente, ma volevo capire cosa vuol dire essere in un ashram. E lei si faceva un po' i cavoli suoi, perché lei ha uno schermo gigante, mentre lei fa gli abbracci ci sono contemporaneamente cantanti, ballerini, danzatori, lo schermo è H24 acceso, viene tutto ripreso e registrato in diretta, e lei mi teneva così stretta, io non ho sentito nessun tipo di energia, anzi mi sentivo anche fuori luogo, devo essere sincera. Poi io non discuto sulle sue capacità di convincere molta gente, oppure che magari fa anche beneficenza, io non voglio dare un giudizio negativo, io dico, questa è la mia esperienza, che sono insomma cose diverse. Mentre questo spazio qua, per esempio, che è un tempio piccolo di una casa privata dove mi ha invitato un'indiana, ho sentito molto di più essere una spiritualità nelle case delle singole persone, dove ti offrono quel poco che hanno e te lo mettono a disposizione e aprono il cuore, aprono l'anima. Quindi no, gli ashram molto di più agli indiani, sì, agli indiani assolutamente. Queste sono cose che loro preparano ogni giorno, dando una cura estrema a qualsiasi particolare, e ti senti veramente accolto. Mentre nell'ashram mi sono sentita giudicata anche per come vestivo. Io non sono una che veste di bianco, invece lì era obbligo vestirsi di bianco. Mi sono dovuta comprare un vestito, quindi commercialmente lei vendeva anche le sue cose all'interno dell'ashram, e mi venivo giudicata perché io magari non mangiavo con gli occidentali. Io ho sempre mangiato con gli indiani nell'ashram, insomma, un po' così. Quindi è molto meglio stare insieme alla gente. Poi parli del sorriso che loro hanno quasi innato, ed è dello sguardo che non si può dimenticare quando sei stato in quei posti lì. Effettivamente, quando poi ritorni in Europa, è successo anche a me tornando da Bali, sceso a Milano, ho detto: ma qua sono tutti arrabbiati, cos'è successo? Cos'è? E sempre hai avuto degli aiuti da tutti, anche inaspettati, e proprio così, che venivano naturalmente, no? Sì, appunto. Allora, è chiaro che si vede che io faccio fatica a camminare, non è che insomma ci vuole la grande scienza. Quindi, per esempio, nei primi posti dove sono andata, che erano di queste bellissime spiagge dove ci sono tantissimi scalini da fare, io comunque non è che chiedevo di mia iniziativa aiuto, anche perché per me è una terapia. Più cammino e più posso fare delle cose in autonomia, più sento che posso recuperare energie o anche piccole abilità. Però appena vedono che tu sei minimo in difficoltà, arrivano: can you help, ti posso aiutare, posso darti una mano? Allora dici sì, molto volentieri. Poi da lì parte di tutto, per cui un invito a pranzo, piuttosto che un invito in una casa, piuttosto che ti facciamo compagnia in spiaggia, oppure facciamo meditazione insieme, facciamo yoga insieme. Quindi la disponibilità dell'indiano è estrema. E come diceva giustamente lui, io continuo a guardare molto di più fuori dall'Occidente. Quindi sono andata a Cuba, sono andata la prima volta verso la Via della Seta in Asia, poi sono andata anche in Africa, Medio Oriente. Diciamo che l'Occidente è forse quello che mi lo sento più stretto rispetto al mio modo di pensare. Poi c'è gente che ci sta benissimo in Occidente, mica tutti devono essere come me, insomma, ecco. Io mi sento molto più accolta fuori dall'Occidente. Come diceva giustamente lui, io quando vado a Milano, perché il mio ultimo editore è di Milano, nel metro, per esempio, mi urtano, non se ne accorgono che io ho i bastoncini, potrei cadere, e non ci fanno caso, mentre a Cuba o appunto in India sono molto più attenti all'altro, al vicino, a quello che ti è accanto. C'è una solidarietà, un'accoglienza, una festosità, ma anche nella miseria, perché io ho conosciuto veramente ragazzi, appunto quando vedete le immagini vedete, insomma, c'è veramente di tutto, c'è dal ricco estremamente ricco a quello che è la cassa più piccola e più povera, che però non ti mette barriere, mentre da noi secondo me le barriere sono molte, molto alte. Questo viaggio, soprattutto per capire, per te, per elaborare il lutto della morte di tuo padre. Vai, un bellissimo viaggio, raccontato anche molto bene nel suo libro, come anche negli altri. Anche gli altri viaggi sono molto importanti e sono molto belli, gli altri viaggi e gli altri libri, perché se riesce a capire bene come anche uno, pur avendo degli handicap, può muoversi tranquillamente con un aiuto. Lei lo fa senza nessun aiuto, e lo fa anche per dimostrare che insomma si può fare, si può fare. Comunque ritorni da questo viaggio e ti dicono che tua mamma è malata di tumore. Esatto, sì. Allora, dicevo che è stato un bel percorso lungo il mio, no? Parto nel 2000, non è recente il viaggio, è 2014, e torno nel 2010, e la prima cosa che mi dicono è che mamma avrà il tumore. Decido di non viaggiare più, cioè non così lontano, diciamo, è una scelta che faccio. Decido che a quel punto, visto che mio papà non era riuscito a seguirlo come avrei voluto, perché dovevo recuperare me stessa, decido che in quel caso al massimo avrei potuto fare 10 giorni, 15 giorni in Europa, dove potevo comunque prendere un volo velocemente. Quindi dal 2014 al 2017, che è l'anno in cui muore mia mamma, non viaggio più, lontano almeno. E quindi decido che a questo punto voglio accompagnarla bene, non so come dire, è una forse una presunzione. E comunque penso che ho bisogno di capire altre cose. E visto che l'India mi aveva dato questa capacità di capire che ogni giorno si nasce, ogni giorno si muore, perché loro vedono l'alba ogni mattina e vanno a vedersi anche il tramonto, quasi a chiudere un percorso giorno quotidiano proprio, per loro è proprio così. Allora dico, ok, vediamo cosa posso fare con mamma, perché comunque per quanto noi diamo per scontato tante persone, non sappiamo né quanto vivano, né quanto siamo riusciti a comunicare ciò che vorremmo aver comunicato. E quindi faccio un percorso abbastanza lungo, lo faccio prima per me stessa e quindi inizio a documentarmi su tantissimi libri sulla morte, inizio a leggere molto e inizio a cercare di capire anche se mia mamma era stata felice, se aveva vissuto come avrebbe voluto, e inizio a guardarla con altri occhi, diciamo, e quindi mi rendo disponibile, ovviamente con i miei limiti, perché poi a un certo punto ho dovuto metterle una badante, io non ero in grado di starle dietro più di tanto. La cosa che ho fatto, che secondo me quello fosse il percorso più importante, magari anticipo le domande, sono andata in un centro Osho, anche se io non sono appunto una sannyasi o comunque non sono una che seguo questa religione, però ho trovato molto bello questa arte del morire nel centro di Miasto e faccio questi 5 giorni dove arrivi il mercoledì, io sono andata il mercoledì, dicono ok, domenica morirai e quindi hai 5 giorni per capire cosa vuol dire lasciare questa terra. Ah, sembra molto banale detto così, no? Però quando entri in questo spirito è una cosa molto forte e molto dura. Credo che dai giochi di ruolo, alle costellazioni familiari, a tutta una serie di dinamiche di relazione che abbiamo intraprese in quei 5 giorni, sono quasi 50 ore di lavoro, è stato molto molto intenso, molto profondo, mi ha sconvolto da tutti i punti di vista, soprattutto emotivi, perché razionale, a quel punto c'è poco di razionale quando devi capire che hai 5 giorni per lasciare qualcosa. E ogni giorno lasciavo un biglietto all'entrata dicendo, faccio un esempio molto banale adesso, lascio il lavoro. Io già ero in pensione, quindi non dovevo lasciare il lavoro, avevo già un vantaggio. Oppure, non so, lascio casa mia, lascio gli amici, lascio... Ecco, l'ultima cosa che ho lasciato all'ultimo giorno sono dei miei figli. Sì, sicuramente funzionante queste cose qua. Proviamo. Si spera sempre di insomma che i figli sopravvivano a noi, no? E quindi l'ultimo giorno nel biglietto scrivo lascio Flavio e Irene. Mi tu la parola? Un attimo. Hai fatto anche un'altra bellissima cosa che c'è dentro nel libro, hai scritto una lettera a te stessa, lasciando anche te stessa. Sì. Scusate. Vuoi parlarci un pochino? Sì. Allora, no, funziona così, allora, adesso mi riprendo, eh. Allora, l'ultimo giorno appunto si lascia tutto quello che hai, devi lasciarlo, e poi devi anche decidere come vorresti morire. E io, mentre in India, poi chi legge il libro lo capirà, mi sarebbe piaciuto veramente lasciarmi andare nell'acqua, e quindi l'idea di morire non dico per annegamento, perché non è tanto quello il concetto, ma proprio di ritornare, diciamo, all'utero materno, perché per me è un abbraccio liquido, insomma l'idea dell'acqua mi dà questa impressione. Invece al centro Osho, che ho insomma, in questi anni ho intrapreso un percorso molto legato alla natura, ma fortissimo, anche perché vivo in campagna da 16 anni, quindi per me la natura fa parte dell'universo e io appartengo all'universo, mi sono resa conto che mi piaceva l'idea di abbracciare questo albero e di appartenere alla terra. Quindi mi sono accovacciata a questo albero e mi sono sentita veramente sprofondare letteralmente dentro la terra. C'è una sensazione molto forte, ma anche molto rilassante quasi. Cioè, è come se ritornassi agli origini, non so come dire. E quindi è una delle cose che chiedono, di scriverti un testamento, e io l'ho scritto e dopo un anno mi è tornato a casa, perché lo lasci lì, io scrivo sempre a penna, anche i miei libri sono tutti scritti a penna e poi vengono trascritti dopo al computer. Dopo un anno mi è arrivato questo mio testamento e coincideva con la fine del mio libro, quindi ho legato il testamento e ho finito il libro, cioè era proprio come se fosse un percorso lineare, perfetto. Per me, poi chiaro che per me. Io tornerei un attimino indietro, giusto anche per essere un pochino più leggeri. C'è un altro punto che mi ha sorpreso in questo libro, è stato quando a un certo punto un medico ayurvedico, se non sbaglio, dopo averti visitato, controllato, ti ha detto che tu avevi dei problemi per questo e per quel motivo, e che se avessi seguito delle regole che lui ti dava, intorno ai 60 anni avresti superato queste cose. Ora, io quando l'ho letto ho detto, ma sì, cioè che Leonora possa rinunciare alla carne, va bene, possa rinunciare allo yogurt, va bene, possa rinunciare al pesce, va bene, ma che rinunci al sole e al vento, una velista come lei, no. Sì, perché in effetti è vero, quando io ho fatto questi 15 giorni di medicina ayurvedica e quindi facevo 2 ore, 3 ore al giorno di massaggi, prima con l'olio e poi con altri, con degli impacchi di erbe che venivano appunto raccolte al momento, non potevo prendere nessun evento, proprio perché facesse effetto sia il massaggio e poi perché dovevo stare veramente, dopo 3 ore di massaggio io dormivo 7-8 ore, cioè una roba lunghissima, e quindi non dovevo essere esposta né al vento né al sole, proprio perché prendevo anche queste pastiglie ayurvediche e quindi avrei dovuto perseguire per altri anni. Però secondo me fare la ayurvedica in Occidente, non lo so perché, non la trovo compatibile con la mia mentalità, quindi ecco, vedete, io ho conosciuto più tutti gli indiani che incontravo lì, o mi abbracciavano o io abbracciavo loro, quindi era, per me era così, insomma, era normale questo. E sì, ho rinunciato per quel periodo lì, solo per quei 15 giorni, dopo io ho il sole e il vento, non riesco a rinunciarci, assolutamente no. Tant'è vero che anticipo un attimino, il prossimo libro sarà proprio un libro scritto in barcavela, anche perché dobbiamo dire che Leonora di solito scrive di getto mentre viaggia, mentre, certo, un libro mi dicevi, no, sì, che non hai scritto di getto, gli altri sono tutti libri scritti mentre viaggi, mentre ti muovi, mentre poi alla fine metti insieme quando poi torni a casa. Sì, quando torno, ogni tanto torno, sì, ogni tanto, sì, perché sono partita con l'idea della turista, poi la viaggiatrice, adesso mi sento quasi una pellegrina, mi rendo conto che tendo a essere sempre più nomade e meno stanziale. E, sì, l'ultimo libro mi ha dato la conferma proprio 3 giorni fa l'editore che uscirà, e, perché l'avevo già scritto, ovviamente dal 2019 io mi sono ricomprata una vecchia barca che avevo col mio compagno e da 4 anni navigo 3-4 mesi, adesso 5 mesi quasi d'estate, e quindi uscirà Infinitamente acqua, che è questo nuovo libro, e il sottotitolo è Una visione romantica del navigare, perché io, come sempre, visto che non viaggio organizzata, neanche navigo organizzata, quindi Navigo veramente a vista, questa è un po' la mia logica. Ha tentato di trascinarmi più di qualche volta, per il momento ancora non c'è riuscita. Sì. Una domanda? Sì, certo. Prego. I filmati non vedo nessuno, mai un mezzo. Ci sono spazi per spostamenti, per visitare, per fare. Ma tu sempre a piedi? No, no, se, l'ho detto prima, se vedi adesso, se ha visto prima, io ho usato sì, i treni. Prego. Dico, a parte i treni, arrivare fino a quando è dentro diciamo, nel loro territorio. Nel territorio io mi muovo a piedi, quando io ho trovato, sì sì, però calcola, io ti do del tuo, calcola che 12 ore che io camminavo, è chiaro che non cammino 12 ore, io non ho una tenuta di questo tipo, poi in 12 ore io faccio un pezzo a piedi, vado dentro il tempio, poi mi siedo, poi medito, poi magari ho dietro il taccuino, scrivo, poi vado nel primo chiosco e mi mangio, che ne so, un samosa, piuttosto che un altro cibo, poi magari faccio un altro pezzo a piedi e avanti così per 12 ore. Così ho fatto i 2 mesi che sono stata in India. Questo è stato un po' il mio modo di viaggiare. I tempi, se vedete, sono immensi, sono delle città, Cioè i tempi del Tamil Nadu sono veramente immensi, cioè è come una città, non dico di Bolzano perché insomma adesso non voglio esagerare, però ci stavo dentro 3-4 ore minimo, quindi insomma è tanto. E ovviamente io faccio fatica, per cui mi piazzavo nei ghat, che se ne posso dove loro fanno le abruzioni, piuttosto che da altre parti, oppure chiacchieravo, cioè, insomma, ecco, questo è il mio modo di stare in mezzo alla gente, perché mi interessava l'opinione degli indiani. Io le uniche persone che ho conosciuto occidentali sono state nell'ashram e che mi hanno detto: ah, italiana, oggi c'è la festa degli italiani. Come, c'è un compleanno degli italiani? Sì, ma a me non interessa. No, no, ma devi far parte anche tu. Ma io sono venuta in India per l'India. No, no, ma se l'ultima italiana è arrivata, vieni. Insomma, alla fine mi hanno trascinato questa festa. Volete sapere com'era il menù della serata? Pizza, patatine e torta di cioccolato. Ho detto: ok, sono contenta di avervi conosciuti, ma domani io non vi conosco, perché non mi interessava niente di queste cose, per dire come sono anche gli italiani all'estero. Eppure era gente che stava lì da 10 anni in questo ashram, quindi nonostante fossero lì veramente da tanti, alcuni decidono di vivere tutta la loro vita da quando entrano, sempre lì, però se non ti integri con l'indiano a me non interessa, non era il mio modo di pensare, quindi no, ecco, e questo è un po' lo... E in caso, siccome magari uno prevede a fare un viaggio scritto da lei, lì come assistenza, troverò per come siamo messi? Cosa intendi? Se intendi assistenza medica o di che tipo? Sì. Però io guarda, non lo so, noi non ho avuto bisogno di nulla. Non te lo so dire, io non mi faccio mai questo problema. Brava, quando parto, prego. Se capita qualcosa, ci penso al momento che capita, non mi pongo mai il problema prima, perché altrimenti uno non viaggia mai. No. Se uno deve pensare di avere tutto predisposto, programmato o preventivato, se mi succede qualcosa, cosa faccio, dove vado, non lo so. A me è capitato, faccio un esempio totalmente diverso, a Cuba io ho avuto un problema analogo, cioè analogo, nel senso che io ho camminato per un bel po' di ore, non mi sono accorta che mi si era piegato il piede perché non avevo la percezione della gamba e sono arrivata la sera dopo tutta la giornata che camminavo con la piaga e il calzino attaccato alla scarpa, quindi avevo la piaga aperta e io per 20 giorni non potevo camminarci sopra. Cosa ho fatto? Sono andata nel primo farmacia, si chiamiamo la farmacia, lì hanno problemi di reperibilità di medicinali, ma soprattutto di quello che è il contorno, quindi garze, bende, eccetera. Io ho cercato in qualche modo di tamponare, sono andata a casa di qualcuno che aveva delle bende e poi sono andata a cavallo, sono andata in bicicletta per esempio, quindi non potevo appoggiare il piede ma mi sono inventata qualcos'altro. Quindi non mi pongo il problema in anticipo, quando trovo la difficoltà l'affronto in quel momento. Quindi, ma io capisco che il mio modo di viaggiare non è per tutti, cioè non è che io pretendo che gli altri viaggino nel mio modo, però non ci penso. In Tanzania mi hanno aggredito, per esempio, io sono stata aggredita a Zanzibar nel 2018, che è stato l'anno dopo che è morta mamma, ho deciso di ripartire, avevo bisogno di andarmene via e volevo l'Africa. E però mi hanno aggredito, mi hanno dato un calcio in testa e io non ci ho pensato prima, se che mi succede qualcosa cosa faccio. Lì ho chiesto l'aiuto dell'ambasciata, perché non ero più tranquilla mentalmente, ma non era un problema medico, era un problema psicologico a quel punto, non mi sentivo più tranquilla. Però l'anno dopo ho detto io non rinuncio a viaggiare, non mi possono fermare anche con un calcio in testa, quindi l'anno dopo ho fatto 2 mesi a Cuba. Quindi ho detto no, nessuno mi fermerà mai, però non mi pongo il problema della medicina, perché non mi sono fatta neanche le vaccinazioni antitetaniche, neanche l'antitifica, neanche l'antimalarica, cosa non sono andata in Africa, quindi perché penso che, allora intanto credo di avere un ottimo sistema immunitario perché da 15 anni non mi ammalo più, però può darsi che sia anche fortuna, non so, non ho idea. Non prendo medicine se non gli antipilettici che ho scalato e sono passata alla cannabis terapeutica da quasi un anno e quindi è una cosa naturale e poi per il resto a casa mia se tu vieni non ho uno medicinale, non ho neanche il pronto soccorso, non ho nulla e è una scelta la mia o una non scelta, non lo so, dipende però ecco, è un po' così. Però uno quando parte dice che vado e posso anche potrebbe succedere. Sì, però mi trovo il problema. Questa è la domanda. Sì, però quando sono andata anche per l'altro. Se non c'è pazienza. Certo, però anche per la malarica, per esempio, l'antipalarica che me l'avevano consigliata per andare in Africa. Ho parlato con la mia dottoressa che mi conosce ormai da 10 anni e mi ha detto no guarda per te è troppo potente la cura preventiva, se ti succede la malaria, se prendi la malaria sappi che è più semplice per te curarti con i farmaci a posteriori. E così ho fatto, cioè non ho preso la malaria, per cui la malaria non l'ho presa, però quando mi hanno ospitato in questo centro della QAM attraverso l'ambasciata, la ragazza che era lì, che si era fatta l'antimalarica, nonostante quella aveva preso la malaria. Quindi anche chi aveva fatto la prevenzione si era ammalato lo stesso. Allora ho detto, a questo punto non me la faccio neanche la prevenzione, al massimo mi curo a posteriori. Però è un pensiero che devi avere tu, cioè io ho questo pensiero. Forse mi sento invincibile, no scherzo. Ma io non intendevo malattie, intendevo sì, sì, un infortunio. Un infortunio, ma io spero, ne ho avuti già abbastanza, ho avuto 30 interventi in vita mia, quindi spero di non averne altri di infortuni, quindi non mi preoccupo, sinceramente non mi preoccupo, non parto da questa idea. Per il tipo di viaggi che faccio io non mi devo preoccupare, perché sennò non viaggio. Eleonora è ben particolare come persona, sicuramente, ha un modo di vivere che è giusto anche conoscere, sapere che esistono persone che il modo più semplice e anche il suo modo che ha avuto in questo libro di affrontare il tema della morte, anche perché alla fine di nuovo torniamo a alle origini, no? Il viaggio della vita, la vita cercata di vivere il più possibile, il meglio possibile e porsi anche il problema, anche se quando sarà, che è quello della morte. Sì, ma guarda, sono estremamente tranquilla perché dopo che fai questi percorsi, dopo che ho fatto questo percorso dell'arte del morire, coincidenza ha voluto che io sono tornata dopo 10 giorni è morta mia mamma, quindi era come se io avessi fatto la chiusura del cerchio, cioè ecco questo è il posto dove lei ha costruito l'ashram, ecco vedete questi palmetti, questi sono le sue grattacieli, avete visto che distesa di palme, ha distrutto le palme, ha distrutto tutto, io sono riuscita a fare queste foto anche se avrei dovuto, cioè era proibito fare le fotografie, scusate se vi ho interrotto un attimo, ma era quello il posto, lascia un famoso di Ama. Direi siamo ormai verso la fine del libro e tu concludi il libro con il decalogo della buona morte. Sì. vuoi dirci qualcosa? Sì, il decalogo della buona morte, ma se volete ve lo posso anche leggere, perché oppure lo leggerete che oppure lo potete leggere nel libro, avete intenzione no, di comprare. No, è solo che io ho questa visione molto, molto serena con la morte, forse perché appunto avendo dovuto firmare quando sono stata operata al cervello, che potevo morire sotto i ferri a 50 anni e avevo ancora due figli minorenni, è chiaro che io ho dovuto almeno fare conti in quel momento, nel momento che ho firmato la carta. E quindi ho fatto un testamento spirituale ai miei figli all'epoca, quindi 13 anni fa, e poi appunto nel frattempo, lo stesso anno è morto mio papà, e poi ho iniziato questo percorso che è durato 7, 8, 10 anni, diciamo, finché è morta mamma. Dopodiché mi è successa una roba simile all'altra prova. Dopodiché, a quel punto, quando fai questo percorso, pensi che la vita è talmente bella e va vissuta talmente intensamente che se anche finisce domani, io ho sempre detto ai miei figli sappiate che mamma muore felice. Cioè io ho fatto una vita che per me è stata bellissima, vissuta molto intensamente, tante vite messe insieme dal viaggio o da tante esperienze che ho fatto, perché e molte relazioni, credo che molte relazioni soprattutto, io credo molto nelle, non tanto solo nell'amicizia, ma in tutto quello che è le persone che noi conosciamo. Adesso lanciatelo. Non lo so usare. Si era capito. No, non ti preoccupare. Allora, faccio un esempio. Il mio cellulare non è mio, è di mio figlio che l'aveva perso. Io non ho mai avuto un telefono, diciamo, moderno. Anche in India avevo un vecchio Nokia. Io fino a 2 anni fa avevo i Nokia, quindi li spegnevo. E per me potevo essere isolata dal mondo. Quando dicevo ai miei figli, io parto per 2 mesi, sappiate che per 2 mesi mamma non la sentite. Io non ho mai chiamato i miei figli. Al massimo ogni tanto andavo in qualche, perché anche in internet c'è, anche in India, mandavo messaggi dicendo mamma ha fatto questo giro, quindi se volete guardatela sull'Atlante, sto bene, tra altri 20 giorni, la prossima volta vi scriverò un altro messaggio, appunto. Ma noi siamo abituati così in famiglia, perché anche i miei figli sono andati in Giamaica 5 settimane e ho detto non vi preoccupate, perché secondo me è una cosa che io sento da dentro, l'ho sempre sentita anche con mia mamma, l'ho accompagnata alla morte da distanza quando mi hanno detto che stava male e io mi sono concentrata e mi sono messa in meditazione e a un certo punto il cuore è partito a 1000. Quando mi sono fermata, mi hanno richiamato, ho avuto una sincope, quindi era come se l'avessi accompagnata. Quindi io credo di sentire le persone a distanza, non ho bisogno del telefono, anche quando viaggio in barca il mio telefono è sempre spento. Lo accendo la mattina, guardo la rotta, guardo Windy, poi lo rispengo, lo riaccendo la sera se c'è qualche messaggio, appunto. Credo che si potrebbe vivere molto meglio se vivessimo in relazione con la relazione col qui e ora sempre. E non con questi mezzi, scusami se non è che non ce l'avevo con te. Io chiedo scusa. No, tranquillo, mi è dispiaciuto molto quando io sono andato, ho fatto 1 ora e mezza di cammino, 2 ore di cammino scalza in mezzo alla montagna per trovare questa eremita che abitava, aveva vissuto per 23 anni in questa grotta e arrivo su e dico bello, adesso qua sto in meditazione, è partito il cellulare al... L'eremita. Non l'eremita, non era l'eremita, ma era il guru, cioè il sadhu. Era il sadhu, era quello che gestiva, diciamo, l'eremo. Io l'ho guardato malissimo, lui mi fa, lei ha problemi? Perché mi ha visto che camminava. No, non ho problemi io, ma io qua non ci posso stare. Ritorno in mezzo al bosco, punto. Si vivrebbe molto meglio. Avete domande su qua? Ecco, appunto, questo era quello che volevo dire. Se ci fossero altre domande da libro, l'abbiamo raccontato direi abbastanza bene, no Eleonora? Anzi, l'hai raccontato abbastanza bene. Se avete, c'è qualcuno che ha domande? Io volevo capire meglio il discorso. Beh, si sente. Capire meglio capire meglio il discorso dei 5 giorni dell'esperienza di morte, cioè com'è che funziona tecnicamente? Loro ti dicono arrivi mercoledì e la domenica morirai, ma si sa che è una... Certo che è una finzione, esatto, ovvio. Ma quindi come fai a immedesimarti se sai che poi non guarda, allora, non è proprio così semplice come appare, no? Perché un conto è dirlo, un conto è viverlo qui 5 giorni. Allora, intanto tutte le persone che sono arrivate là sono arrivate per motivi molto, molto seri, visto che eravamo 8 donne, poi c'era Ramatirta che è il, diciamo, quello del conduttore del percorso, poi c'era un traduttore, perché lui era di Berlino, parlava in inglese, e poi c'era un traduttore e un assistente. Però intanto tu vai già predisposto, perché altrimenti non ti iscrivi a una cosa di questo genere, no? Dell'arte del morire. E poi comunque devi iniziare a capire perché sei là e perché, dove vuoi andare, perché comunque tu non è che ti danno il percorso prestabilito, ognuno di noi faceva un percorso interiore. Allora, una ragazza era morta la madre in pochissimo tempo, giovanissima, un'altra aveva avuto un'amica suicida, e un'altra aveva perso un figlio, cioè ognuno aveva una motivazione differente per essere lì. Io sapevo che mamma non avrebbe vissuto ancora per tanti anni, anzi ti ho appena detto che dopo 10 giorni sono tornata, mamma era morta, quindi io sapevo che stavo andando vicino alla, non se non alla mia morte, alla morte di qualcuno che mi era molto vicino e molto accanto, cioè insomma la persona per me è fondamentale, ma non perché non pensassi che mio papà era meno fondamentale di mamma, però era chiaramente è come quella che ti dà la vita, e quindi comunque per me era quella lo scoglio più grosso. Quindi vai già predisposto, poi loro hanno tutta una serie di esercizi, di dinamiche, di gruppo che ti fanno fare, dove tu vai e entri nella tua dimensione molto interiore, molto interna, e non puoi farne a meno di riflettere su quello che stai vivendo, e soprattutto di come si muovono anche le dinamiche delle persone che ti stanno accanto. Ho dovuto simulare, per esempio, di essere la madre di una persona che aveva rifiutato sua madre da sempre, e caso vuole che io, quando sono morta, perché ho dovuto farmi il mio funerale e ho dovuto fare il funerale anche in quel caso a mio padre, perché mi si sovrapponeva. Questo è il posto ayurvedico, questo è il centro di ayurvedica dove io facevo yoga, meditazione e medicina ayurvedica. No, qui non c'è l'immagine del Cintoshi di Miasto. No, quando io ho dovuto fare il funerale a qualcuno di caro, mio papà non l'avevo potuto salutare, quando sono arrivata a casa, ma era già nella bara, quindi non l'ho neanche visto mio papà in vita, cioè da morto. Mentre quando ho dovuto decidere di fare il funerale, mi si sovrapponeva l'immagine di mia mamma e di mio padre in contemporanea. Io ho detto no, mamma, non voglio che muoia, l'ho accantonata quell'immagine, e quindi ho messo sotto questo lenzuolo questa persona che simulava mio padre, e quindi ho potuto dire a lui tutto quello che non è riuscito a dirgli in vita, e quindi lì ho pianto tutte le mie lacrime, credo di essere stata disperata in quel momento. E invece poi quando io ho fatto mi hanno fatto il mio funerale, perché a quel punto ti fanno il tuo funerale, quando tu rinasci io incredibilmente mi sono ritrovata in posizione fetale e sono andata istintivamente, senza ragionare, in braccio a quella signora che aveva rifiutato la madre, e lei ha dovuto accogliermi. È stata una roba molto forte, cioè difficile da spiegare, non riesco a spiegartela a parole, se non la vivi non lo capisci, penso. Però ecco, per dirti, lei che rifiutava sua madre si è dovuta trovare me che volevo essere sua figlia, cioè sono dinamiche che scattano quando tu lavori sul corpo, sulle emozioni, senza filtri, e però ci lavori per 10-12 ore al giorno in condizioni, se vuoi, protette, e poi c'è stato un giorno di assoluto silenzio, silence, per 24 ore non potevamo parlare con nessuno, dovevamo stare a contatto con noi stessi. Non è facile spiegarlo, forse nel libro lo capisci meglio. C'è il microfono? Ah, grazie. Grazie, solo perché non è registrato il podcast. L'India è il paese delle grandi contraddizioni, quindi ci sono ricchezze enormi, non so se si vedono andando in giro, e c'è una miseria estrema, quindi le persone ammalate, le persone che muoiono per strada, ecco. E questo fa parte, probabilmente, come hai raccontato, della loro concezione anche della vita e della morte, quindi viene accettata la morte per poi probabilmente rinascere, esatto. Ma tu come occidentale, come comunque formazione cristiana, anche se adesso hai cercato altre dimensioni spirituali, cioè che impressione ti ha dato vedere questa miseria estrema, vedere queste persone così sofferenti? Allora, beh, chiaramente come viaggio io, non l'ho visto solo là, l'ho visto in Thailandia, l'ho visto in Asia, l'ho visto a Cuba, l'ho visto in Africa, non è che c'è un luogo dove tu non puoi non vedere la miseria, c'è anche in Italia, noi non serve andare laggiù per trovare anche le persone che vivono in senza tetto, piuttosto che quelli che dormono nelle stazioni, no? L'India è estrema. Quindi sì, l'India è estrema, anche la Thailandia, io quando sono andata nell'88 l'ho trovata estrema, per me che venivo dall'Occidente, parliamo sempre di tra visione occidentale e visione orientale o comunque altra. E ti fa pensare, più che altro ti fa pensare, e non puoi essere indifferente, quindi non è che puoi fare molto, puoi, se vuoi condividere in quel momento quando sei là le loro situazioni, i loro pensieri, ti vedono un po' come un modello da imitare, ma io ho sempre detto no, non imitate noi, noi siamo il peggio del peggio, io vado in questi posti proprio perché mi trovo meglio là che non qui. Adesso io sto in barca, ma io quando sto in barca so, non vado nei porti, se vada, io ho bisogno di stare a contatto con la natura, ma questo è il mondo mio è la gente, le relazioni, la natura, il mondo, questo, non c'è altro, anzi parlo molto del superfluo che dovremmo iniziare ad abbandonare il necessario, cioè abbiamo troppo, non abbiamo più valori reali secondo me. È difficile da fare. È difficile? Non ho capito. Rispettare quello che lei ha detto. Sì, non è che io non sono per. Cioè, non è per tutti. No, ma io diciamo si tende a, non si arriverà mai a. Cioè io spero di imparare tutta la vita finché non sono orizzontale in un altro senso. Quindi io continuerò a cercare. C'è qualche altra domanda? Direi che. Se non ci sono altri interventi, sì. Grazie. Grazie. Allora, se non ci sono altri interventi, direi che. Grazie di essere È qua. Stato un bel viaggio quello che ci ha permesso di fare anche questa sera, anche se in poche ore, Eleonora. E è stato molto bello il suo viaggio, vedere che è partita da qua, è andata in India, ha cercato in India, è tornata dall'India e poi alla fine. Si è ritrovata a Miasto a trovare quello altre, che altre a trovare altre risposte o risposte in più che magari non è riuscita ad avere in India. Allora io direi tanti auguri, buon viaggio. Grazie. E continua a viaggiare sicuramente.